Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve, un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, il mutare degli stili di vita, il desiderio di convivenza pacifica e di futuro, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani, con un'attenzione speciale, dunque, alle relazioni fra specie diverse. È la puntata numero 719, e parleremo di orsi e di progetti che li riguardano, di iniziative parlamentari in materia di animali, dei ricorrenti attacchi alla vita selvatica e anche delle alluvioni che non danno tregua al nostro fragile paese. La colonna sonora e la ricetta della settimana sono a cura del nostro tosco vegan chef, nonché DJ, Gabriele Palloni. Dopo la Romagna è toccato alla Toscana. Alcune ore di pioggia intensa, fuori del comune per la portata, sono state sufficienti ad allagare una vasta porzione di territorio nella piana fiorentina. Un'area densamente abitata e ancora più sfruttata, cioè asfaltata, impermeabilizzata, sull'onda di un'ansia produttiva e distruttiva che stiamo pagando a caro prezzo. Lo pagano in particolare le persone umane e no che vivono nell'area fra Firenze, Prato e Pistoia. Ci sentiamo di aggiungere la nostra voce ai tanti che reclamano più prevenzione e meno emergenze, più prati e più alberi e meno cemento e meno asfalto. Ma intanto dobbiamo registrare nuovi attacchi alla vita selvatica anche nell'ambito delle notizie e delle iniziative riguardanti le alluvioni. Succede che la provincia di Ravenna, competente quindi sul territorio più colpito dalle inondazioni nello scorso mese di maggio, ha stanziato 74.000 euro in favore delle attività di caccia a tassi, volpi, istrici e nutrie, animali accusati di rovinare e indebolire gli argini di canali e fiumi. Non abbiamo dimenticato che già all'epoca dell'alluvione non mancarono sindaci e amministratori che puntarono il dito sulle nutrie per gli argini indeboliti, con affermazioni a dir poco grottesche, in un territorio dove si è costruito oltre misura, anche in aree classificate a rischio. Ci pare quindi opportuno, di fronte a questa notizia, riportare un brano di quanto scritto su altreeconomia.it nel maggio scorso dal professor Paolo Pileri, docente di pianificazione e progettazione urbanistica al Politecnico di Milano e autore del libro L'intelligenza del suolo, pubblicato da Altreeconomia. Scriveva dunque Pileri: l'Emilia-Romagna consuma suolo come se non ci fosse un domani. Parandosi dietro a una legge urbanistica regionale del 2017, la numero 24, che fa letteralmente acqua da tutte le parti per quanto riguarda la tutela del suolo. E i nodi vengono al pettine. Insopportabili, scriveva Pileri, le lacrime dei politici e delle varie autorità civili o di alcune organizzazioni dell'agricoltura che riescono a prendersela perfino con le nutrie che bucano gli argini. Tanta è la miopia o la svogliatezza di vedere che il clima è cambiato per causa nostra e siamo noi i soli responsabili di tutto ciò. La nostra urbanistica, la nostra agricoltura, la nostra mobilità autocentrica, la nostra idea di crescita e di sviluppo. Siamo noi le nutrie, noi sapiens che non vogliamo smettere di consumare suolo, di cementificare in ogni dove, di tenere in piedi questo modello sociale ed economico dilapidatore di natura. Oggi sono tutti a piangere, ma ieri erano tutti schierati a deridere e non considerare quanti di noi, pochi ai noi, sostenevano pubblicamente che la legge urbanistica dell'Emilia-Romagna, con il suo maledetto 3% di consumo di suolo sempre possibile, non avrebbe che aggravato la situazione, aumentato le metastasi. Tanto per ricordare i numeri e non le opinioni, e cito dati tratti dal rapporto ISPRA sul consumo di suolo, fra il 2020 e il 2021 l'Emilia-Romagna è stata la terza regione italiana per consumo di suolo, più 658 ettari cementificati in un solo anno, pari al 10,4% di tutto il consumo di suolo nazionale. In pochi anni, e con questi governanti, la regione è arrivata ad avere una superficie impermeabile dell'8,9%, contro una media nazionale del 7,1%. E tutti sappiamo perfettamente che sull'asfalto l'acqua non si infiltra e scorre veloce, accumulandosi in quantità di energia, ovvero provocando danni e vittime. Così il professor Pileri nel maggio scorso sull'Emilia-Romagna. Lo stesso schema, cioè sovraconsumo di suolo, edificazione in aree pericolose, ideologia dello sviluppo ad ogni costo, è all'origine di quanto accaduto in Toscana, con migliaia di persone rimaste senza casa e costrette da giorni, e chissà per quanto, a spalare fango e cercare riparo altrove, e tanti animali morti o costretti a fuggire. I distruttori, come dice Pileri, non sono le nutrie, ma gli ideologi della crescita infinita, i fanatici della cementificazione. Quante volte abbiamo parlato di attacchi agli orsi, di orsi imprigionati, uccisi, trovati misteriosamente morti, di progetti volti a limitare la loro popolazione? Fin troppe. Perciò sorprende una notizia che arriva dall'Abruzzo. Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ha approvato una convenzione con partner italiani e stranieri per sviluppare progetti di procreazione assistita dell'orso marsicano. In verità il progetto nel suo insieme ha una portata più larga e mira al consolidamento della diffusione di questa specie nell'Appennino centrale. Ma è questo aspetto, la riproduzione assistita, a colpire inevitabilmente la fantasia. E ad accendere, a dire il vero, anche qualche preoccupazione, come quella espressa dall'associazione animalista OIPA, che ha osservato: se in Trentino gli orsi sono considerati troppi e alcuni amministratori puntano all'abbattimento, il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga vuole ricorrere alla riproduzione assistita per aumentare il numero di orsi marsicani. Ci chiediamo, dice OIPA, se questo non determinerà una densità tale da creare poi problemi di convivenza con le popolazioni locali, con eventuali conseguenze sulla pelle degli orsi. Il timore nasce evidentemente dall'attenzione posta dal mondo scientifico sull'integrità genetica della specie, più che sulla sorte dei singoli individui. Auspichiamo, dice infatti OIPA, che tale progetto si svolga in maniera oculata e che abbia la priorità di tutelare non solo la specie, ma anche i singoli esemplari. In particolare, a curare la parte dedicata alle tecniche di riproduzione assistita sarà l'Università Spagnola di León, che, spiega un comunicato, condividerà il bagaglio di competenze accumulato in oltre 20 anni di manipolazione di orsi bruni. Proprio così, manipolazioni. Cercheremo in futuro di prestare attenzione allo sviluppo di questo progetto. Sempre a proposito di orsi, restando in Abruzzo, ci sono buone notizie sui cuccioli di Amarena, l'orsa vigliaccamente uccisa a fucilate nell'estate scorsa a San Benedetto dei Marsi. Il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise informa che i giovani orsi di Amarena stanno bene e crescono. Questa è la buona notizia. Ma sempre OIPA fa notare che le loro vite sono comunque in pericolo se non si mette freno alla caccia. Gli orfani hanno 10 mesi, dice OIPA, e hanno bisogno di essere lasciati in pace tanto dai curiosi quanto dai cacciatori. Gli orsetti si trovano in un momento molto delicato. Hanno subito la morte della mamma 2 mesi fa e nonostante tutto, rimanendo insieme, sono riusciti a sopravvivere. Ora sono in procinto di andare in letargo e vanno tutelati dalle istituzioni e dalla comunità. Quindi OIPA chiede alla Regione Abruzzo e all'ambito territoriale di caccia di Avezzano di sospendere la caccia nelle zone che vedono la presenza degli orsetti, come attestato dal monitoraggio del parco. Occorre permettere ai 2 giovani plantigradi, conclude OIPA, di continuare a crescere senza essere disturbati e senza rischiare la vita. Lo scorso ottobre sono state introdotte sanzioni penali specifiche per l'uccisione, la cattura o la detenzione dell'orso marsicano, e quindi sembra contraddittorio che dopo neanche un mese dall'inasprimento delle sanzioni si possa cacciare nelle zone dove vivono anche gli orfani di Amarena. Vedremo se la Regione Abruzzo e l'ambito di caccia di Avezzano accetteranno questa richiesta. Que eu quero. agora vê que eu te amo, porque você demorou pra perceber. Você foi feito pra mim, faz um zãozão gostoso assim, que nada de ruim poderá te acontecer. La caccia, va da sé, è il principale pericolo che incombe sulla vita selvatica. In un paese come il nostro, popolato da uomini armati e legittimati a uccidere, ma anche ferire, mutilare, animali liberi. Una mattanza sta avendo luogo anche nell'isola del Giglio, nell'arcipelago toscano, dove negli anni scorsi è stato attuato un impegnativo piano di salvataggio dei mufloni, con il trasferimento dall'isola ad altri luoghi di alcune decine di esemplari. Ora i mufloni rimasti nell'isola sono di nuovo sotto attacco e la rete nazionale dei santuari per animali liberi e il centro di recupero Ricci, la Ninna, protagonisti dell'operazione di salvataggio di cui parlavamo, denunciano l'uccisione di almeno 19 mufloni da parte dei cacciatori. Si tratta all'incirca della metà degli animali rimasti sull'isola. Sara D'Angelo, presidente della rete dei santuari, dice che nessuno considera neppure gli studi e le recenti scoperte scientifiche che evidenziano l'unicità dal punto di vista genetico dei mufloni del Giglio. Come dire, si tratta a questo punto di una specie tipica dell'isola. Ma Sara D'Angelo dice che contano i soldi dell'Unione Europea per eradicare i mufloni, concessi sulla base del progetto Let's Go Giglio, che D'Angelo giudica inconsistente e fazioso. Il presidente dell'ente parco arcipelago toscano, Gianpaolo Sammuri, la pensa evidentemente all'opposto e ha replicato dicendo che la caccia al muflone all'isola del Giglio è aperta dal 15 ottobre a metà marzo. E aggiunge che i cacciatori autonomamente abbattono i mufloni fuori dal parco, cioè in circa metà dell'isola. E questo è normale. Non si tratta di operatori del parco, dice il presidente, ma di cacciatori. E aggiunge, l'ISPRA ha dato parere favorevole all'eradicazione e lo studio genetico sui mufloni non cambia il loro parere. Si tratta, come sappiamo, di un caso assai controverso, visto che la comunità scientifica e gli enti preposti alla tutela del territorio sono convinti di dover contrastare le cosiddette specie aliene, con piani di eradicazione che sollevano molti dubbi, sia per la difficoltà di realizzazione, sia per un'ovvia questione di giustizia verso le vite animali sacrificate, e sia perché parlare di specie autoctone e aliene nel mondo globalizzato è sempre più difficile, se non impossibile. E ciò vale per gli animali non umani, ma anche per noi umani. E non possiamo esimerci da riflettere attentamente sulle affinità riscontrabili, almeno nei concetti chiave e nel lessico, fra piani di gestione delle specie animali aliene e piani di gestione dei migranti, come questi ultimi ormai vengono chiamati da politici e media. Come on. Si parla di animali in Parlamento in questi giorni, fra nuove norme definite contro i maltrattamenti e l'avvio del percorso legislativo che porterà al divieto di produrre e commercializzare la cosiddetta carne coltivata. Quanto ai maltrattamenti, non si parla in noi di prevenzione, ma della più classica e di assai dubbia efficacia forma di intervento, l'inasprimento delle pene. Come ha spiegato Vittoria Brambilla, deputata di Noi Moderati e presidente dell'intergruppo parlamentare per i diritti degli animali, si punta ad avere pene più severe per chi maltratta e uccide gli animali. Brambilla spiega che chi uccide un animale, e qui intende senza un valido motivo, ossia non per caccia, macellazione alimentare e tutti gli altri casi ammessi, può vedersi applicata una pena da un minimo di 2 anni a un massimo di 6, chi maltratta da un minimo di 1 anno a un massimo di 5, con la conseguenza che patteggiamento e condizionale non possono cancellare una misura detentiva prevista e che la sanzione pecuniaria non è più alternativa ma è abbinata alla pena. Registriamo questa iniziativa parlamentare, ma ci permettiamo di dubitare della sua effettiva efficacia. Quanto all'altro punto, la carne coltivata, si tratta di un provvedimento ampiamente annunciato e salutato con grande soddisfazione dal suo principale sponsor, Coldiretti, che esibisce un sondaggio secondo il quale il 74% degli italiani è contrario al cibo definito artificiale, prodotto in laboratorio, dalla carne al latte fino al pesce. Cibo che, secondo Coldiretti, gruppi di potere finanziario e multinazionali stanno cercando di imporre sui mercati, nonostante le perplessità sugli effetti a lungo termine sulla salute umana. La scelta italiana, a dire il vero, rischia di essere bocciata dall'Unione Europea, visto che nel resto d'Europa la produzione e la commercializzazione di carne coltivata è ammessa. Il ministro Francesco Lollobrigida su questo punto sembra però tranquillo e dice che l'Italia vuole essere all'avanguardia in Europa e nel mondo nella difesa di un sistema produttivo basato sul rapporto uomo-terra-lavoro, uomo-mare-lavoro. Altri esponenti della maggioranza parlamentare di destra parlano addirittura del divieto come battaglia di civiltà. La nostra redazione non è particolarmente convinta che la via della carne ottenuta in laboratorio sia davvero prioritaria e preferiamo muoverci su altri terreni, lontano da logiche economiche, tecnocratiche e commerciali che non controlliamo. Ma ci piacerebbe che la discussione, al momento molto concentrata su aspetti tecnici e di mercato, includesse finalmente la questione animale e il suo statuto nella società, ciò che è il grande assente in questo dibattito, tutto concentrato su interessi di parte e su improbabili slanci nazional-patriottici. Banquete! Abbiamo chiesto a Gabriele Palloni, tosco vegan chef, autore del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, ma anche di un libro dedicato alla cucina regionale italiana, sempre reinterpretata in chiave non violenta, libro edito anch'esso da Newton Compton, di dedicare la ricetta della settimana alle persone che hanno subito gli effetti dell'alluvione nella piana che si estende fra Pistoia, Prato e Firenze. Sentiamo. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. Immagino che non sia sufficiente una semplice ricetta di cucina per dare serenità agli abitanti delle zone alluvionate. Ma provate a cucinare e portar loro questo crumble a base di ingredienti ricchi di sostanze che stimolano il buon umore. Magari non risolverete nulla, ma di sicuro allevierete loro il giramento di scatole per qualche momento. Gli ingredienti per 6 persone per il crumble del buon umore sono 2 banane, 2 patate dolci, una tazza di fiocchi di avena, 100 g di cioccolato fondente, 100 g di zucchero di canna, 30 g di noci, un cucchiaio di olio extravergine, un pizzico di cannella e un pizzico di sale. Sbucciate le banane e schiacciatele con una forchetta, mettetele in una ciotola e aggiungete 50 g dello zucchero di canna, la cannella e i fiocchi di avena. E amalgamate uniformemente. Versate l'impasto sul fondo di una pirofila che avrete spennellato con olio. Coprite con il crambo tutto il fondo e il bordo facendo pressione con un cucchiaio. Fate cuocere in forno ventilato a 180 gradi per circa 20 minuti. Nel frattempo sbucciate e lessate le patate dolci. Una volta cotte, passatele con lo schiacciapatate o col frullatore ad immersione. Unite il rimanente zucchero, il pizzico di sale, un cucchiaio di olio extravergine e la cannella. In un pentolino portate ad ebollizione 90 g di acqua. Unite il cioccolato fondente tritato e fate sciogliere mescolando con una frusta. Lasciate addensare per un minuto, quindi togliete dal fuoco e lasciate intiepidire. Distribuite la crema di patate dolci sul crumble e coprite il tutto con la salsa al cioccolato. Infine decorate con le noci tritate. Lasciate freddare prima di servire. Questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Gabriele Palloni, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Gianluca Masala, Zenone Sovilla, Gianni Ferrarotti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.